Benvenuta Lucilla Galeazzi per parlare con noi del Fronte delle Donne che sarà in scena al Teatro Vascello dal 20 al 25 febbraio. Benvenuta Lucilla. Allora, partiamo intanto da una semplice descrizione di questo lavoro. C'è la ricorrenza del centenario della Prima Guerra Mondiale, mi sono letta un sacco di libri e sono particolarmente appassionata di storia. Improvvisamente, leggendo dei libri anche che parlavano, uno particolarmente, Le donne al lavoro 1914-1920, io ho scoperto tantissime cose. Tra parentesi, ce l'avevo anche a casa, dei racconti delle mie nonne che avevano lavorato in fabbrica, di mia madre che aveva lavorato in fabbrica, delle mie zie, insomma tutta la genia femminile della mia famiglia è passata nelle fabbriche di Termix, io sono di Termix. E quindi questa cosa mi ha fatto molto riflettere sull'emancipazione femminile che comincia proprio in quegli anni, dal rendersi conto che quando vanno a lavorare allo stesso lavoro corrispondono salari differenti, le donne prendono la metà degli uomini, ma però quel salario è comunque una libertà che prima le donne che non lavoravano non avevano, potevano avere il loro denaro, potevano spenderlo, ma lo spendevano per la famiglia. Poi gli uomini partono in guerra, quindi moltissimi lavori vengono passati alle donne, per esempio guidano i tram, guidano i treni, guidano gli autobus ce n'erano pochi, ma erano soprattutto strade ferrate, ma guidavano le macchine. Fanno, ad esempio, c'è una donna che partecipa al Giro d'Italia, l'unica donna insieme a tanti uomini. La donna conosce uno spazio che non aveva prima, non fosse altro perché molti uomini erano stati chiamati alle armi. Pensate che quando la guerra scoppia, l'Italia entra in guerra nel 1915, parte 1 milione di soldati, ma già nel 1917 erano 5 milioni e 800 mila. Sì. Sì, Immaginate quanti uomini partirono per il fronte. Quindi ci fu bisogno della manodopera femminile. E questo poi fu difficile poi rimandarla indietro. Il fascismo lo fece, e disse: vabbè, adesso ci ha aiutato, per la guerra tanto brava, tanto caruccia, tornare a casa e fate figli. Però nel DNA della donna ormai si era instaurata una consapevolezza del suo valore, anche del suo valore economico, e fu molto difficile ributtarla indietro. Lucilla, uno spettacolo tutto di donne. Come avete pensato l'allestimento? Beh, l'allestimento, intanto abbiamo una regista che è Maria Rosario Maggio, la quale come me è appassionata di storia, quindi abbiamo discusso insieme su come organizzare tutta la regia. Siamo 8 donne in scena. E poi ci sono tanti canti, perché stiamo parlando di una cultura orale che non si esprimeva attraverso gli scritti, ma si esprimeva attraverso i canti. E quindi ci sono canti di donne, ci sono canti di uomini, ci sono canti di guerra, e poi ci sono le famose strofe sulla musica bomba c'è, come si chiama così, che cantavano i soldati, anche quelli riprendiamo. E quindi è un insieme di racconti, di discussioni che facciamo tra di noi e di moltissimi canti. Senti, c'è un carattere più forte degli altri che emerge da tutto questo, da tutta questa memoria di donne? Sicuramente le operaie più delle contadine. Guarda che le contadine, anche mancando le braccia degli uomini, riuscirono diciamo, ad assicurare all'Italia un prodotto alimentare che era pari al 90% del 100% prodotto quando c'erano gli uomini. Quindi significa che veramente si misero a lavorare come schiave proprio per produrre quel cibo che poi serviva a loro, ma serviva alla famiglia, serviva ai soldati, serviva al mercato, eccetera, eccetera. Quindi le donne contadine, come quelle operaie, come quelle che lavoravano nei trasporti, assicurarono all'Italia quello di cui abbisognava una nazione come allora. Quindi carattere più forte, io direi, sicuramente furono protagoniste perché le vedevi più in giro nelle città, furono le cittadine, furono le donne che fecero le infermiere, prima non esisteva, le croci rossine, e poi le donne rimaste sole. Fu interessante la lettura di un articolo di un giornalista siciliano che venne invitato da delle donne ad ascoltare una conferenza. In realtà era un'associazione che si era data a raccogliere fondi per il fronte e abiti per le famiglie insomma bisognose, perché purtroppo morivano tanti soldati e tante donne rimanevano vedove con tanti figli, quindi dovevano essere aiutate, supportate. E queste parlavano tra di loro ed erano solo donne. Questo uomo scrisse sul giornale che ne aveva avuto un'emozione talmente forte come se avesse assistito a uno spettacolo scandaloso. Ed erano donne che prendevano la parola senza chiedere permesso al padre, al fratello, al marito. Sì. Tranquillamente parlavano tra di loro su come organizzarsi per andare a cercare questi fondi e questi abiti da dare alle famiglie bisognose. Anche la presa di parola da parte delle donne era una cosa inusitata, scandalosa, che metteva paura. Sì. Senti, Lucilla, i materiali dei racconti e delle canzoni provengono un po' da tutta Italia? Provengono un po' da tutta Italia, ma soprattutto provengono anche dalla mia memoria personale, perché avendo avuto nonne operaie, zio operaio, eccetera, io ho racconti di fabbrica anche divertenti, ma anche alcuni molto brutti che mi sono stati tramandati, e secondo me la storia scritta non può non essere raccontata e integrata dai racconti orali. Ormai la storia orale è diventata molto importante, cioè le memorie delle persone, insieme alle ricerche in biblioteca, insieme alle ricerche degli archivi, sono la storia. Senza la voce delle esperienze personali, la storia è vuota, gli manca il cuore. Lucilla, si tratta di una prima nazionale, poi che succederà? Beh, poi lo faremo a Terni, poi spero che lo faremo ancora per il 2018, perché poi quest'anno, il 4 novembre, finiranno il famoso centenario di commemorazione della Prima Guerra Mondiale, perché la guerra per noi finì il 4 novembre con l'armistizio, mentre per gli altri europei finì una settimana dopo, l'11 novembre, quando firmarono l'armistizio i francesi, gli inglesi, i tedeschi, i russi e tutti gli altri. Quindi probabilmente fino a quella data avremo altre possibilità di farlo, questo spettacolo. Ma io mi piacerebbe tanto andare nelle scuole e raccontare la storia anche attraverso i racconti orali, perché è una storia più vera, più sentita, più emotiva, più sentibile ingiustizia che passava attraverso mille cose, attraverso lo specchietto che viene spaccato dal caposervizio perché non devono portare lo specchietto, che se no che vanno a fare gli operai, a specchiarsi in fabbrica, oppure non so, il fatto che non le facevano alzare anche le donne incinte per andare in bagno perché fermavano la produzione. C'erano mille angherie anche quotidiane che passavano quando le donne lavoravano, perché i caposervizio erano maschi. Certo. Lucilla, in chiusura, secondo me. certo. Lucilla, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più su questo lavoro e anche sulla tua opera in generale? Allora, intanto io ho un sito, Lucilla Galeazzi, dove potete incontrarmi. E poi naturalmente ci sono, io mi sono molto molto informata attraverso internet. Per esempio, c'è una storica che si chiama Bruna Bianchi, che ha messo moltissimo del suo lavoro in internet. È una straordinaria donna che si è occupata delle donne durante la Prima Guerra Mondiale e ha raccolto testimonianze anche scritte di, per esempio, delle donne che furono portate anche durante la Prima Guerra Mondiale, ci furono gente presa e trasportata. Per esempio nel Trentino, per vendicarsi dei trentini che si erano schierati, perché Trentino faceva parte a tutto titolo dell'Austria-Ungheria come Stato, e per vendicarsi delle trentine che avevano deciso di stare con l'Italia, a un certo punto arrivarono, caricarono tutta la popolazione civile, che poi erano donne, bambini e vecchi perché gli altri stavano facendo la guerra, e se li portarono per un anno in giro per l'Austria, spostandoli ogni volta, e maltrattandoli, facendogli patire la fame, il freddo, ricoverandoli in stalle, insieme ai maiali, eccetera, eccetera, proprio per avvilirli, e naturalmente tantissimi morirono. E anche durante la Prima Guerra Mondiale ci sono stati campi di concentramento, né? Purtroppo la Seconda Guerra Mondiale amplificò questa cosa perché prese gli ebrei come gli ebrei, i malati di mente, gli stufti, I Rom. tutti quanti li portò a morire. Sì. Ma anche durante la Prima Guerra Mondiale, pensa che quelle baracche che furono utilizzate per accogliere, si fa per dire, questi che furono portati per un anno in giro per tutta l'Austria, furono quelle che poi vennero usate per i campi di concentramento tedeschi. Sì. Allora, ricordiamo la prima nazionale del Fronte delle Donne. Al Teatro Vascello a Roma dal 20 al 25 febbraio, Lucilla Galeazzi, un abbraccio e un ringraziamento e a presto. A presto! È con noi l'autore e attore Antonio Sanna per parlare del suo nuovo spettacolo La civiltà del lavoro che sarà al Teatro Tordinona qui a Roma dal 20 al 25 febbraio. Antonio, ben ritrovato. Ciao, ben trovato a te Federico. Dai. Bene, tu? A parte Io abbastanza bene. il raffreddore. Allora, la civiltà del lavoro ce lo descrivi brevemente? La civiltà del lavoro, nasce dal mio bisogno di cercare di capire quando parliamo di lavoro di cosa esattamente stiamo parlando. Io credo che nella testa della maggior parte delle persone questa idea non sia chiara. Insomma, il lavoro o viene identificato con lo stipendio, con la paga, il lavoro fosse un'altra cosa. Allora, insomma, mi sono messo a fare intanto un lungo lavoro io di ricerca sulla storia del lavoro, ma proprio del concetto, del modo di relazionarsi degli esseri umani col lavoro, dagli antichi, cioè che cos'è? Il lavoro è quel qualcosa fondamentalmente, nasce come quell'attività che serve per fare le cose che ci servono, no? Anche Sì. l'animale lavora, perché l'animale selvatico quando deve mangiare deve cacciare, quindi a suo modo lavora, deve catturare una preda. No, fa qualcosa per procurarsi il cibo, per costruirsi la tana e così via. Noi Sì. facciamo molto di più perché costruiamo palazzi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi pian piano poi cos'è diventato oggi il lavoro? Perché nelle varie epoche ha subito mutazioni molto importanti. Insomma, per gli antichi era solo fatica. La parola lavoro deriva da labor, che per i latini significava esattamente fatica, appunto. Infatti loro la facevano fare agli schiavi. L'uomo libero non. Tendeva a non lavorare perché era un uomo libero. Noi il lavoro lo facciamo fare alle macchine, però nel frattempo è diventato poi una maledizione di Dio nel Medioevo e poi è diventato invece un modo per procurarsi la salvezza, per procurarsi il paradiso, quindi il lavoro è diventato sacro, eccetera, eccetera. E adesso, bah, non voglio sbilanciarmi, insomma, in giudizio, anche perché è uno spettacolo. Secondo me non ha ha il compito soprattutto di porre domande, insomma, di porre meditazioni, considerazioni, insomma, anche dubbi, anche se poi lo spettacolo alla fine propone non dico una soluzione, ma un'immagine sicuramente. La costruzione dello spettacolo è una costruzione drammaturgica, seppur fatta su un percorso di narrazione, come se cinque attori si siano presi la briga di raccontare al pubblico tramite scene, tramite personaggi che ci vengono a trovare dagli antichi, insomma, a quelli più moderni, vari personaggi che intervengono a dire la loro su questa materia, insomma, personaggi molto noti come Licurgo e Solone, insomma, o personaggi sconosciuti di mia invenzione o talora, insomma, non di mia invenzione. In realtà all'interno dello spettacolo non c'è molto di inventato proprio di sana pianta, se non il trattamento drammaturgico teatrale che ne ho fatto, ma io ho utilizzato dati, insomma, Sì. da libri, da storici e così via, insomma, il mio lavoro di creazione di invenzione è stato soprattutto nella costruzione, nel teatralizzare tutto questo e farlo diventare un gioco un po' grottesco, un po' comico, anche se a denti stretti, un po' serio e così via. Ecco, rispetto alla costruzione del testo, quali sono stati i materiali più importanti ai quali hai attinto? Ah, guarda, tutti, cioè, non ho potuto mettere, già così lo spettacolo dura 1 ora e 40, quasi 1 ora e 45, quindi è più la roba che ho dovuto levare, ma anche dopo ho continuato a togliere, a tagliare, perché dico, vabbè, questo tanto tutto non si può dire, però insomma adesso non mi ricordo, che ne so, mi viene in mente Eduardo Galeano, con i suoi libri Le vene aperte dell'America Latina, Sì. dove racconta insomma quello che... Non so se conosci Eduardo Galeano, suppongo di sì, un giornalista, scrittore uruguaiano, che ha dovuto anche darsi da fare per salvarsi la pelle, insomma, per quello che ha scritto. Un esperto di medioevo francese che si chiama, oddio, mi dimentico sempre il nome di questo personaggio, vediamo se acchiappo il libro al volo, eccolo qua, è stato fortunato, Jacques Le Goff, che è Ok. un medievalista molto, molto importante, quale ho ricavato anche notizie molto curiose, insomma, alle quali non pensavo, e così via, ma Sì. anche Maynard Keynes, ma John Kenneth, l'economista americano, John Kenneth Galbraith, Joseph Stiglitz, economista americano che ha lavorato per la Banca Mondiale, insomma, mi sono documentato abbondantemente su che cos'è la moneta, come si è mossa la moneta, come si muove l'economia, che cosa stiamo vivendo e che momento sta vivendo il lavoro, perché normalmente e correntemente si sente parlare di creare nuovi posti di lavoro, di creeremo nuovi posti di lavoro, a parte che insomma Lavoisier ci ha spiegato un po' di tempo fa che nulla si crea, nulla si distrugge. Ma secondo me non vuol dire nulla, cioè si va contro una logica che è completamente diversa. Il lavoro va a diminuire, ma per un fatto proprio storico e tecnologico. Dipende da Certo. come viene gestito il lavoro, perché il problema poi, andando ad analizzare, per quello che ho capito io, non è tanto il lavoro in sé quanto l'organizzazione del lavoro. Sì, Il sì, lavoro sì. in sé è una cosa, ok, fai delle cose per... È l'organizzazione del lavoro. Come lo organizziamo quel lavoro? Gli antichi lo organizzavano catturando schiavi, catturando altri che erano allo stesso livello dei muri e dei somali, e facendo fare a loro il lavoro. Noi lo facciamo fare alle macchine o lo facciamo fare a un numero sempre più ristretto di persone che vengono sfruttate, che in un'epoca in cui si potrebbe lavorare molto meno, ma questo lo previde Maynard Keynes nel 30, disse che noi avremmo lavorato non più di 15 ore a settimana, Sì. grazie allo sviluppo, grazie alla tecnologia, no? Sì. Che sarebbe stato un mondo meraviglioso dove l'essere umano avrebbe vissuto felice. Naturalmente scandalizzò l'uditorio, che non era composto di... non c'era San Francesco dentro, insomma, nessuno del genere. E questo, insomma, Sì. l'argomento dello spettacolo, ed è sviluppato in un percorso di racconto e di accadimento, perché poi, siccome io non riesco a fare a meno di comunque di scrivere drammaturgia, e poi all'interno dello spettacolo, che sembrerebbe un racconto, accadono delle cose nel teatro stesso, per cui ciò che è accaduto nella società accade anche nello spettacolo. Sì. Senti Antonio, Quindi nel racconto, insomma. sulla locandina leggo anche Maschere e Pupazzi. Sì, per alcuni personaggi abbiamo pensato di rappresentarli in questo modo, non ti dico quali, insomma, però perché aveva un senso, e altri due personaggi portano delle maschere in una scena medioevale. Questo, se vieni a vedere lo spettacolo, come spero, Eh sì. vedrai, vedrai, Sì. c'è Osadesh Yılmaz, appunto, che sa fare queste cose, sa. No, stavo ripensando anche a quel vasto movimento negli anni 70 che teorizzava e praticava la liberazione dal lavoro anche in base a quelle teorie, ma anche agli sviluppi storici che portano a una progressiva automatizzazione del lavoro. Il problema, semmai, è quello della redistribuzione del reddito. Faccio sempre l'esempio, ma non io, insomma, nello spettacolo c'è anche Bertrand Russell che fa una cosa, spiega un problema, lui fa un esempio in un suo libro, insomma, intitolato L'elogio dell'ozio. Il problema è che se per mietere un campo grande, non so, 10 ettari, servono 20 uomini con la falce, nel momento in cui entra in campo la mieti trebbia, di uomini ne bastano due, tre al più, insomma. Gli altri 17, e che fai? Gli spari in fronte. Gli altri 17 non servono, ma non servono significa che non hanno più, nella nostra logica, che non hanno più ambito di vita. Cosa devono fare? E poi in tutto questo il prodotto creato rimane uguale, se non addirittura maggiore. Cioè non è che il grano diminuisce, il grano è sempre quello. Che lo facciano 20 uomini o che lo facciano a mieti trebbia, il grano sempre quello rimane. Il problema è che la mieti trebbia è di proprietà di uno, di una persona, no? E quella persona non rinuncia a risparmiare 18, 17, 17 paghe. Quindi tutto questo non fa che portare profitto in grandissima quantità a una parte dell'umanità. Ma Stiglitz in un suo libro spiega abbondantemente come negli Stati Uniti, parliamo degli Stati Uniti, non del Portogallo o della Grecia, insomma, come negli Stati Uniti la maggior quantità di ricchezza sia ormai detenuta dall'1% della popolazione, che è una cosa agghiacciante. Veramente agghiacciante, perché è chiaro che questo sistema porta a questo, cioè il flusso della ricchezza trasformata in denaro, e anche qui, e questo aprirebbe un altro capitolo molto, molto, molto importante, è un fiume che va in un'unica direzione. Bisognerebbe decidersi a dire che quel denaro è falso, e allora qualcosa forse cambierebbe. Perché quel denaro, la buona parte di quel denaro è falso. Falso nel senso economico del termine, è denaro che non ha sottostante, non ha sostanza sotto, non rappresenta più niente, perché è prodotto da altro, è creato da altro denaro. Cosa che per gli antichi era una cosa abominevole. Senti Antonio, teatro, al Teatro Tordinona dal 20 al 25 e poi è già in programma, sono già in programma altre tappe in giro? Per ora no, speriamo. Speriamo bene. Noi per ora l'abbiamo fatto, lo stiamo finendo proprio di costruire, e poi vediamo, speriamo che il pubblico venga numeroso, che si interessi a questo. Cioè, mi piacerebbe che fosse l'occasione anche di scambi, insomma, un po' come mi era successo con Infinito Futuro, ti ricordi, no? Che tutte le sere capitava che il pubblico, buona parte del pubblico, si fermasse a parlare, a chiedere, a porre delle domande, perché secondo me, insomma, il teatro serve a questo, serve poi a condividere, a far creare scambi su un tema, insomma, in quel momento, che poi si può allargare. Quindi vediamo. È uno spettacolo, tra l'altro, in tono col tema dello spettacolo, costruito con le nostre mani, cioè con l'unica cosa che costruisce tutto, cioè le menti, secondo me, le menti e i muscoli degli esseri umani. In Il denaro non conclusione, costruisce nulla se non c'è dietro questo. Antonio, ci dai anche dei riferimenti internet per saperne di più? Allora, riferimento internet, come faccio a dire così? Digitando su YouTube Spettacolo La civiltà del lavoro di Antonio Perfetto. Sanna, si accede a un video con sotto alle informazioni, ci sono anche le informazioni sull'ora degli spettacoli, eccetera. Spettacolo Benissimo. Allora, perfetto. La civiltà del lavoro di Antonio Sanna. Su YouTube viene fuori questo.

ho quattro attori in questo spettacolo che sono bravissimi e meravigliosi. Bene. Da Giulio Maria Corso, che è il protagonista, fino a Monica Baugo, Riccardo Naldini e il giovanissimo Samuele Picchi, hanno fatto un lavoro straordinario perché il pubblico è in scena insieme a loro, su due gradinate ai lati di questo spogliatoio della piscina, a un metro da loro. E hanno dovuto fare un lavoro di, siccome il tema dello spettacolo è anche la verità, quindi anche la verità personale, vera, dell'attore che recita e deve essere vero nel dire quello che dice, che sono cose molto sottili e importanti, hanno fatto un lavoro bellissimo e se lo spettacolo avrà successo sarà grazie a questa loro prestazione emozionante. Allora ricordiamo Il principio di Archimede al Teatro di Rifredi di Firenze dal 15 al 25 febbraio. Un saluto e un ringraziamento ad Angelo Savelli che ne ha curato la traduzione e regia. Angelo, ci vediamo a teatro. Spero. Un abbraccio. A Firenze o in qualche altro posto dopo che lo spettacolo avrà dimostrato il valore delle tematiche che affronta. A presto allora. Ciao. Saluti a tutti. Roberta Caronia, benvenuta. Benvenuto. Come va? Tutto bene? Sì, molto bene, grazie. Corsa, perché stiamo per andare a prendere un treno, quindi però bene, dai. Un treno che ti porterà a portare in scena lo spettacolo Ifigenia in Cardiff, che sarà anche a Roma dal 21 al 25 febbraio al Teatro Studio Argo. Allora, per chi ci ascolta, Roberta, raccontiamo un po' brevemente la storia. Guarda, allora, questo testo intanto è un testo recentissimo, è stato messo in scena nel 2016 a Londra, al National Theatre. Il testo è di questo autore gallese che si chiama Gary Owen, che racconta, diciamo, la storia di questa Effie, che è questa protagonista, che diciamo, attraverso la segue, diciamo, attraverso una sua, un periodo della sua vita, ecco, mettiamola così. Lei, questa donna, vive, immaginiamoci questo personaggio un po' che vive in periferia, è ambientato a Sloth, infatti il testo originario si intitola Ifigenia in Sloth, che è una parte della periferia di Cardiff. Noi abbiamo preferito ovviamente intitolarlo a Cardiff. E questa donna vive appunto un po' una vita un po' marginale, cioè un po' borderline, ecco, mettiamola sì, così. Per cui lei aspetta, perché è un ritorno pazzesco, cioè non riesco, guarda, metto in viva voce perché ho proprio un ritorno forte, va okay, bene? Sì, ti sento anche meglio. Dunque, e niente, quindi lui la segue in questa avventura un po' alcolica, perché naturalmente l'immaginario è quello britannico, molto british, molto molto alcolico, finché lei non ha un incontro, diciamo, che cambia un po' le sorti della sua vita, ed è un incontro anche incontro un soldato in un locale in una notte, cambia molto anche di se stessa, ecco, le accadono poi tantissime cose, diciamo che questo personaggio a cui succedono tantissime cose davvero insolite ed è anche buffe. Sì. Però l'epilogo, ecco, non è felicissimo, però io non posso Roberta, come hai incontrato il testo e come hai deciso poi questa messa in scena? Ma guarda, il testo me l'ha proposto Walter Malossi l'estate del 2016. E mi ha chiesto se volevamo provare a presentare un primo studio per Trend, e così abbiamo fatto, nel senso, io però l'ho letto e mi sono un po' innamorata, nel senso che ho pensato che questo era un testo che aveva delle potenzialità drammaturgiche, teatrali, nel sì, senso che sono testi che sono molto belli ma difficili da mettere in scena. In questo caso non è il capolavoro, non è chiaramente, quindi non è lineare come dei grandi capolavori, ed è molto difficile da fare, molto difficile per l'attore, perché ha un ritmo vorticoso, perché inizia tutto in salita, perché insomma si sviluppa in un modo anche non propriamente omogeneo per tante cose, quindi ha un linguaggio molto, molto violento a volte, e quindi non è facilissimo portare in scena perché è difficile poi empatizzare, no? E nello stesso tempo però ha dei laghi, lo dico sempre, laghi proprio di emotività e di anche di riso, dei momenti di riso, e queste cose io trovo che siano molto, molto efficaci. Sì, sì, sì. Senti, allora, prima citavi Trend, la rassegna curata da Rodolfo Di Gianmarco, e il primo studio che è stato a dicembre, sempre a Roma, al Teatro Belli. Al Teatro Belli, sì. Sicuramente è stata una corsa contro il tempo, perché impararla a memoria, ovviamente, sì. Ho parlato di 40 pagine di monologo, e non è stato facilissimo, e non avevamo neanche tanto tempo per provare, insomma, non era la condizione ideale per mettere in scena uno spettacolo, ma io ci ho creduto. Sì. A questo proposito volevo chiederti, mi parlavi prima di un elemento linguistico molto importante, essendo ambientato in una metropoli anglosassone. In questo senso ha avuto un peso rilevante la traduzione di Valentina De Simone. Ci racconti un po' di questo? Valentina, abbiamo lavorato molto anche insieme sulla traduzione, per capire anche con Walter, Valentina è stata bravissima, per capire come restituire un immaginario di una periferia gallese utilizzando l'italiano, che non ha quello slang lì, sì. Non gli appartiene, è una lingua molto più morbida, molto più fluida, molto più complessa da dire, proprio da, no? Per cui, mentre invece l'inglese, no? Noi, ti raccontavo prima un po', quando noi sentiamo i film americani in lingua originale, il loro slang eccetera, noi abbiamo ci restituisce subito una sonorità molto chiara, e abbiamo dovuto utilizzare quello che prendiamo noi dalle nostre città, dalle nostre periferie, cioè i dialetti. Un personaggio parla con un accento slavo, delle sonorità, ripeto, adesso non vi immaginate che io mi metto lì a fare il dialetto, perché non è l'attore, non è un imitatore, a me non interessa imitare, non me ne frega niente, mi interessa che arrivi una sporcatura, un'immaginario, che arrivi una suggestione di metropoli, di immaginario periferico, e quello mi serviva. E devo dire che non è stato facilissimo, però ci siamo anche riusciti, perché poi comunque è un linguaggio un po' tagliente, un po' spinoso, ci sono un po' di parolacce, insomma bisogna cercare anche di entrare un po' in quelle mood lì molto british, e nello stesso tempo riportarlo all'Italia, sì, sì. Renderlo credibile, ecco, per renderlo, sì, credibile. Senti Roberta, nelle varie risposte che hai dato un po' è emerso, ma volevo chiederti quali sono gli elementi che più ti sono piaciuti del testo di Owen. Ma guarda, questo fatto che in realtà, vabbè, lui utilizza il mito di Ifigenia, ma in realtà davvero Effi, è un'antieroina completa, cioè una figata, le succedono una serie di cose anche assurde, e nello stesso tempo tu non puoi mai neanche lontanamente credere che lei possa essere un'eroina. È proprio una che vive nella porta accanto di casa tua, e che tu magari tutte le volte che la vedi pensi, oddio, questa, ecco. Quindi la cosa bella è proprio questo gesto antieroico della drammaturgia. Tu empatizzi con un personaggio antieroico, okay. È anche passato, è anche buffo, è anche assurdo in alcune reazioni. Poi la sua emotività a me piace, perché io sono una persona emotiva, e quindi ho pensato di poter portare in scena questa cosa. E poi il fatto che a chiunque può capitare qualcosa di straordinario nella vita, sì, questo, sì, secondo me è incredibile, cioè è una cosa fondamentale da... Senti Roberta, in chiusura, ci dici... Aspetta, volevo dirti anche che... Ah, come no? Sì. Ha debuttato poi in nazionale a Festival delle Colline, ci tengo, perché bene, sono molto carini loro e molto coraggiosi anche ad ospitarci, quindi insomma mi ha fatto molto piacere. Poi è andato bene, insomma, sono contenta, però ci tenevo moltissimo, ecco, dirlo. E proprio a questo proposito ti chiedo di segnalarci le prossime tappe più immediate e poi tutti i riferimenti internet per saperne di più. Allora, le tappe immediate, vabbè, adesso sto andando a Vercelli, farò spettacolo domani al Teatro Anacoleti, poi farò Atti, che è lo spazio core, all'interno della loro rassegna, poi faremo Roma dal 21 al 25 febbraio al Teatro Argo, all'interno di Dominio Pubblico, Black Mirror, e poi andrò a Taranto, quindi Puglia. E, che dire, per quanto riguarda le informazioni, io penso che le trovate sia sul sito del Teatro di Dioniso, che ovviamente è la produzione, sia sul sito del Teatro Argo trovate moltissimo, trovate tutto quello che riguarda lo spettacolo, rassegna stampa, credo un po' tutto, quindi, e anche ovviamente le indicazioni per... Anche un trailer c'è, sì. Il trailer sì, lo trovate anche su YouTube tranquillamente, c'è un video promo, sì, sì. Che però, ripeto, io sono sempre un po' contraria ai video promo in teatro. Ma sì, perché alla fine devi andare a vedere. Certo, ecco, certo. Quindi non svegliamo troppo neanche lì. Ecco. Ok. Allora Roberta, io ti dico in bocca al lupo, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, davvero. Allora, a risentirci presto. Ah, posso dire una cosa? Certo. Qua esce la serie, invece, in cui sono tra i protagonisti, dovrebbe essere il 5 marzo. E volevo, insomma... No, dirtelo perché magari se perché ti... no. Ok, un abbraccio e a presto. Ciao Federico, ciao. Benvenuta Maria Paiato. Grazie, sono molto felice di essere con te e con voi. Con te per parlare di Stabat Mater, oratorio per voce sola di Antonio Tarantino, in scena al Teatro Eliseo, dal 21 febbraio all'11 marzo. Maria, per chi è all'ascolto, raccontiamo brevemente questa vicenda? Sì, brevemente, Stabat Mater è la storia di una giornata nella quale questa donna, Maria Croce, è impegnata a cercare il figlio, non sa più niente di lui. E dopo un po' che è lì sul palcoscenico che parla, tirando in ballo persone che appartengono alla sua vita, a cominciare da questo Giovanni che probabilmente è il padre del figlio, dalla signora Trabucco che è la, diciamo, quella che si occupa dell'assistenza sociale, e la Giunta Levi che è una professoressa, e Don Aldo e Fuorché Rubina, parlando di tutto questo universo che le gira intorno, si viene a scoprire, lei capisce o comunque ha il presentimento che questo figlio sia stato catturato dalla polizia perché appartenente ad una banda, probabilmente di terroristi, eccetera, e lo hanno portato in galera, in carcere, e da quel momento lei ne perde le tracce. Ed è una giornata nella quale lei, cercando, chiede aiuto costantemente a queste persone, si aspetta che la vengano a sostenere, ad aiutare appunto, ma nessuno arriva. E lo spettacolo si conclude proprio con questa estrema solitudine denunciata da questa donna ad un certo punto, quando si rende conto che lei chiede aiuto e nessuno viene. E semplicemente se è più forte, sempre più forte, il presentimento che questo figlio non ci sia più, che sia successo qualcosa di irreparabile. Ed è uno spettacolo, quindi è un monologo, è la storia di questa donna, parla solo lei, appunto, per voce sola. Però nello stesso tempo le voci sono tante, perché lei poi in maniera anche divertente, canzonatore, insomma, prende in giro tutti questi personaggi che appunto fanno parte della sua vita, ne fa il verso, li fa parlare, e quindi lo spettacolo ha tanti momenti anche, diciamo, divertenti, leggeri, buffi, grotteschi, però in questo percorso si avvicina poi ad una fine che è tragica. Senti, come sei entrata nel progetto? Ma molto semplicemente, Giuseppe Marini me ne ha parlato 2 anni fa e io sono stata molto contenta di questa sua proposta e ho accettato immediatamente. Conoscevo già il testo piuttosto bene perché in qualche modo, insomma, lo avevo già fatto in un precedente spettacolo con la regia di Walter Malosti. Era tutta un'altra idea, perché in quello spettacolo Walter aveva riunito tutti e quattro gli atti profani e quindi, diciamo, c'era il Stabat Mater molto molto ridotto, poi c'era Lustrini, poi c'era il Vespro della Beata Vergine, insomma tutti gli altri testi. In questo caso Giuseppe Marini mi ha proposto di lavorare solo su Stabat Mater, quindi di fare il monologo, non dico integralmente perché integralmente sarebbero 2 ore e mezza di spettacolo. Sì. Abbiamo dovuto comunque operare dei tagli, però ecco, stare da sola ed affrontarlo invece un personaggio per un tempo più lungo e quasi più completo, insomma, era una bella cosa, mi piaceva, e quindi insomma ho accettato molto volentieri. E dopo 2 anni, un anno e mezzo abbondante di attesa, abbiamo cominciato le prove e da una settimana abbiamo debuttato, ora siamo a Milano e poi verremo a Roma. Senti, cosa hai apprezzato maggiormente del testo di Tarantino? Beh, la cosa immediata è appunto il linguaggio, le parole che Tarantino sceglie per far parlare questa donna. È una donna molto ignorante, una donna che abita nella periferia più emarginata e degradata della città di Torino. E quindi appartiene ad un mondo che si esprime molto spesso per volgarità, scurrilità, cioè è una donna abituata alle violenze, anche quando le violenze, cioè anche quando sono affettuose, sono sempre macchiate di pesantezza, no? E quindi il suo linguaggio è un linguaggio molto, si potrebbe dire, semplificato, volgare, scurrile, ma è anche molto poetico. E io non sono un'esperta di scrittura, però immediatamente leggendo questo testo salta agli occhi la profonda compassione, empatia e poesia di quella scrittura, che non è per niente casuale, non è per niente scritta così. Sembra un flusso di parole messe, ma non è così, c'è proprio una ricerca assoluta della parola giusta messa in quel posto lì. Quindi insomma è proprio un lavoro sulla parola, che vanno rispettate anche nella sua costruzione così ossessivamente ripetuta. Le parole vengono ripetute, il concetto ogni tanto lei li ripete, ma questa ossessione, questa logorrea ripetitiva è proprio anche quella una cifra del testo, della scrittura. E quindi mi ha affascinato questo linguaggio, poi così anche scritto, dando possibilità interpretative molto, molto diverse, molto colorate, molto, insomma, si passa da stati d'animo molto bui, tremendi, depressivi, ma anche invece ad una grande forza, solarità, divertimento, insomma c'è tanto materiale su cui, sì, lavorare, e questo è molto bello per un attore. Senti, ha debuttato adesso, ci sarà la tappa a Roma e poi ci sarà una tournée, volevo chiederti questo, e poi su cosa sei impegnata, dove ti vedremo anche in questa stagione? Ma dopo Roma, che finirà, a Roma finiremo l'11 di marzo, poi ci saranno altre 2 o 3 date, non di più, Cremona, Lumezzane, non tanto di più. So che l'anno prossimo è prevista una ripresa, purtroppo anche lì non lunga, perché insomma abbiamo destinato alla ripresa dalla metà di ottobre alla metà di novembre. Sì. Della prossima stagione, perché io poi avrò un impegno con lo Stabile di Torino, con Filippo Dini, che mi ha chiamato per fare un Pirandello insieme a lui, e subito dopo, da febbraio in poi dell'anno prossimo, dovrei c'è un impegno col Teatro Stabile di Roma, con la regia di Massimo Popolizio, è una cosa che insomma molto interessante, per cui insomma diciamo che l'anno prossimo starò su questi tre progetti, ecco. Okay. Un po' di Stabat Mater, che comunque anche quel poco è pesante, perché insomma è un monologo di un'ora e mezza bello denso, e poi questi altri due impegni. Bene. Allora, un ringraziamento, ricordiamo Stabat Mater, oratorio per voce sola di Antonio Tarantino, in scena al Piccolo Eliseo dal 21 febbraio all'11 marzo. Maria Pagliato, un ringraziamento, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie, viva il lupo, un abbraccio forte anche a te e agli ascoltatori. A presto. A presto. Con Valentina Bischi, autrice, attrice dello spettacolo Die Panne, che sarà in scena il prossimo 16 febbraio a Castiglioncello e il 22 febbraio a Roma. Valentina, ben trovata. Buongiorno. Ciao. Raccontiamo subito di cosa si parla? Sì, allora intanto ti ringrazio per l'autrice, ma l'autore è Dürrenmatt, io l'ho adattato. L'adattamento, ok. Certo. Sì. Dunque, è una storia che parte da una panne, da una macchina che va in panne, e da qui il titolo, per cui questo personaggio si ritrova sperso in un posto che potrebbe essere qui ed ora, ma anche nel passato o nel futuro, non c'è una connotazione temporale specifica. Pregusta l'idea di passare la notte fuori, in questo luogo in cui si potrebbe mangiare bene, fare degli incontri interessanti, quando viene rimandato in una casa, e qui c'è l'incontro con il padrone di casa e i suoi ospiti, che lo invitano a cena e ad un gioco, e quindi la serata prende tutta un'altra piega. Si parla di un processo alle intenzioni, e in breve è questo. Okay. Cosa avevi apprezzato del testo? Beh, proprio l'atto giudiziario, perché in questo caso si affida a una giustizia particolare. Il testo fa leva, secondo me, su un sentimento di cui soffriamo tutti, che è il senso di colpa, per cui il testo fa presa, ci sentiamo tutti coinvolti, è difficile non immedesimarsi nei panni del protagonista, ma anche in quelli di chi lo giudica. Come hai pensato alla messa in scena? Ecco, la messa in scena è un aspetto molto piacevole, secondo me, perché casualmente questo spettacolo è nato per un allestimento fuori da un teatro, e quindi è stato pensato intorno a un tavolo. Quindi io sono seduta a capotavola e gli ospiti, i spettatori sono seduti intorno a un tavolo. Questo ci permette di portarlo un po' ovunque, e permette agli spettatori di entrare davvero in questa scena cena. E insieme a me c'è Francesca Sardella, che è una danzatrice, e Angelo Lazos, che invece si occupa delle musiche. Questo allestimento ci ha permesso appunto di girare nei luoghi più vari, siamo stati in biblioteche, castelli, case private, teatri senz'altro, portando la scena sul palco, e ogni volta il pubblico apprezza molto questa modalità di trovarsi vicini, però non, ci tengo a dirlo, non violentati, no? Perché alle volte ci sono, almeno per me come spettatrice, delle messe in scena che sono molto, che non rispettano molto la privacy anche di una persona. Invece questa è una misura giusta, insomma. Valentina, ci parli anche delle due date, delle prossime due date, degli spazi in cui si svolgeranno? Sì, ben volentieri. Allora, la prossima data sarà il 16 febbraio, venerdì, alle ore 21:15 ad Armonia, presso il Castello Pasquini di Castiglioncello. Ne siamo molto, molto contenti, è un luogo speciale a cui teniamo tanto. In più sarà messo in scena nella Sala del Camino, che si confà perfettamente all'allestimento, in quanto appunto si parla di una casa nobiliare e quella sala rispetta moltissimo il testo. E quella successiva invece sarà giovedì 22 febbraio a Roma, in uno spazio che si chiama Romart alla Garbatella. E anche questo è uno spazio particolare dove Marco Garzia, che lo cura, lui ha allestito questo luogo trovando e cercando materiali antichi, particolari, quindi sembra di entrare in un museo. Senti, in chiusura lasciamo anche i riferimenti web per saperne di più sullo spettacolo e sulla tua attività. Certo. Allora, il sito è in costruzione, okay, come si dice, mentre al momento si può fare affidamento a Facebook, quindi il mio contatto è Valentina Bischi. Invece, per sapere più esattamente per i biglietti e quant'altro, si può andare sul sito di Armonia, www.armonia.eu, e invece per fare riferimento a Roma, a Romart, anche lì c'è la pagina Facebook, quindi www.facebook.it/romart, tutto attaccato. Benissimo. Valentina, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, un abbraccio a te, a voi e grazie. Eccoci con l'attrice Flavia De Lipsis per parlare dello spettacolo Follower, in scena il 24 febbraio a Camere d'Aria a Bologna. Flavia, ben ritrovata. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Ci racconti un po' di questa storia? Sì, come no. Allora, Follower nasce innanzitutto come una residenza, quindi un'idea che avevamo in testa e abbiamo poi sviluppato grazie al Teatro Studio 1, dove abbiamo sviluppato la residenza ad aprile scorso. E nasce da un'ipotesi, un'idea. Immaginiamoci un futuro prossimo dove ci sia un'app, una delle tante che oggi sono diffuse, ma quest'app permette di seguire e di essere seguiti fisicamente, realmente, nella realtà, da una persona o una persona. E come cambia la vita delle persone quando, diciamo, il virtuale diventa reale? Questa persona, nello specifico, è una ragazza, si chiama Nina, che ha da poco finito la sua storia d'amore probabilmente più importante, e non riesce ancora a staccarsi da questa persona che ha amato. Si ritrova a dover usare per motivi lavorativi quest'app e in qualche maniera a un certo punto si convince che la persona che la segue, il suo follower, potrebbe essere la persona che ama. E allora lì bisogna capire che cosa succede. Ok, come cambia anche il comportamento, stavo pensando, sentendo quello che ci stavi raccontando, la percezione dell'essere osservati, come cambia i nostri comportamenti. Sì, soprattutto se si pensa, diciamo, se si crede, se si immagina di avere uno scopo e un occhio che ci guarda sempre, il nostro comportamento cambia. Pensiamo di essere liberi e invece non lo siamo. Se ci si pensa, è un paradosso. Chi è che segue chi? Seguo io qualcuno oppure sono io che sono schiavo degli occhi che mi seguono? E questo è un tema, diciamo, abbastanza, come dire, presente nella società di adesso, visto l'utilizzo che si fanno, no? dei social e della piattaforma web. Sì. Però in generale, al di là di questo, una volta che uno prende coscienza del fatto che probabilmente tutti gli strumenti che noi abbiamo oggi per essere connessi non ci salvano dalla malattia del secolo, che è una delle malattie del secolo, che è la solitudine, e a quel punto l'indagine si sposta su noi stessi e su chi siamo. Senti, come avete pensato la messa in scena? Guarda, ci sono io, una panca, un piccolo cellulare e uno zaino, fine. Le luci, basta, nient'altro. A differenza, diciamo, della visione, della prospettiva, del panorama leggermente fantascientifico, perché poi, voglio dire, si parla di una cosa che è un possibile sviluppo delle nuove tecnologie, in realtà ci sono solo io, che faccio parecchi personaggi per un'ora e un quarto di spettacolo scarse, e attraverso, diciamo, faccio un viaggio attraverso gli occhi di varie persone, tutte queste persone viste attraverso gli occhi di una sola persona, che poi sono io. Senti Flavia, si tratta di una prima e poi ci saranno altre tappe? Assolutamente. Allora, a parte Roma, scusa Roma, dove siamo appunto stati in residenza ad aprile scorso, e poi abbiamo riproposto lo spettacolo al Festival Inventaria, la compagnia Dove Come Quando lo propone adesso a Camera d'Aria a Bologna il 24 febbraio e poi a Messina il 3 e il 4 marzo ai Magazzini del Sale, ospiti della compagnia Teatro dei Naviganti, che saluto, che ci offrono questa bella possibilità di portarlo. E poi stiamo organizzandoci per farlo anche altrove, per portarlo anche altrove. Benissimo. Ci dai tutti i riferimenti internet, a proposito di internet, per saperne di più? Internet, visto che tutti quanti utilizzano internet, allora noi abbiamo una pagina che è abbiamo un sito che è www.dovecomequando.net, dove potete trovare tutte le informazioni, le recensioni, di regia e sinossi dello spettacolo, nonché i nuovi trailer. Ce ne sono, visto che il nostro regista si è sbizzarrito, arriveranno a 5 trailer di questo spettacolo, giusto perché le visualizzazioni oggi sono la nuova droga. E poi abbiamo pagina Facebook della compagnia, pagina Facebook del Festival Inventaria, che ha coprodotto questo spettacolo, e poi mi profili, mio, Flavio De Lipsis, e del regista, che è Pietro D'Attola. Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento il 24 febbraio a Camere d'Aria a Bologna con Follower, Flavia De Lipsis in scena. Un bacio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, grazie a tutti, un saluto, ciao. Con l'autore e attore Pietro Faiella per parlare di un workshop sul lavoro di Bertolt Brecht, in particolare Ascesa e caduta della città di Mahagonny. Pietro, ben ritrovato. Ciao Federico, ben ritrovato a tutti. Allora, intanto diamo le coordinate, il luogo e le date. Allora, le date, il laboratorio si svolgerà dal 26 febbraio fino al 2 di marzo, e il luogo sarà lo Spin Time, che è in via di Santa Croce in Gerusalemme. Qui a Roma. Sì, a Roma, naturalmente. Come nasce tutto? Guarda, il progetto arriva a questo esito di workshop arrivando un po' da lontano dal lavoro che Marcello Cava ha fatto nel tempo con il Teatro Mobile su Bertolt Brecht, collaborando con l'Università La Sapienza e con professori, con laboratori che si sono svolti negli ultimi anni. Ora c'è l'obiettivo di andare in scena all'interno di un esito di un bando della regione sulle città di fondazione tra Colleferro e Sabaudia, e un evento che dovrà accadere anche per i 120 anni della nascita di Brecht, anche in situazioni qui a Roma, e quindi il laboratorio vuole essere un momento di incontro con delle realtà più giovani dal punto di vista attoriale, per individuare un gruppo di persone che possano riuscire a mettere in scena e lavorare su questo testo in particolare, Ascesa e caduta della città di Mahagonny. Cosa apprezzi del lavoro di Brecht e di questo in particolare? Beh, questo testo in particolare rappresenta un esito del lavoro drammaturgico di Brecht, che vuole denunciare, diciamo, il metodo culinario della messa in scena del testo, e lui lo fa cercando di esasperare le modalità drammaturgiche della culinarietà, cercando di costruire una serie di sketch in cui c'è il divertimento puro, che lui però cerca di mettere in scena per descrivere, perché si denunci questa diciamo fruizione di puro divertimento per acquistare una consapevolezza. Questo è dal punto di vista drammaturgico molto interessante. E naturalmente è la parabola di della costruzione di un mondo capitalistico che condanna poi chi non riesce a farne parte all'estinzione, e questo è il significato ultimo di questo testo, che è anche molto divertente. Senti, come sarà organizzato il workshop? Guarda, il workshop verterà su due aspetti: uno di indagine teorica e analitica sul testo di Bertolt Brecht, che sarà a cura di Marcello Cava, con intervento di professori universitari che faranno anche delle piccole escursioni storiche e di approfondimento. Poi ci sarà il lavoro più specifico, invece più intenso, sulla recitazione, che curerò io e che cercherà di orientarsi su questi due estremi tra lo straniamento postulato da Brecht come idea di recitazione e quello dell'immedesimazione, che invece è più legata a Stanislavski. Noi cercheremo di scoprire, diciamo, un medio, una terza modalità che ci possa permettere sia di stare dentro la recitazione del personaggio, sia riuscire ad avere quella consapevolezza critica e quella distanza che permetta di ottenere i risultati che Brecht voleva, cioè la consapevolezza non solo dell'attore ma anche dello spettatore rispetto alla critica che lui propone dentro il testo stesso. Bene. In chiusura, Pietro, ci lasci tutti i riferimenti web? Certo, allora tutti quanti su teatromobile.eu trovate l'indicazione di tutti i dati del laboratorio, anche sulla pagina Facebook di Teatro Mobile, nonché su quella di Spin Time, e anche sul sito di Teatro e Critica c'è il comunicato del laboratorio, che si svolgerà, lo ripeto, al Spin Time di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, dal 26 di febbraio al 2 di marzo. Benissimo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, ti saluto, un saluto a tutti, ciao Federico.